Sabato prossimo, dopo una lunga attesa, Hyperjam arriveranno a Imola per un loro concerto rimandato più volte durante la pandemia, ma il giorno prima, venerdì 24, alle 16 al Dams in via Barberia 4, si terrà un evento intitolato Hyperjam e la filosofia. Tutto nasce anche da un libro scritto da Stefano Marino, professore associato all'Università di Bologna, intitolato Hyperjam and Philosophy. Noi siamo al telefono con lui e lo saluto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, un saluto a tutte e a tutti. Allora, cosa c'entrano Hyperjam con la filosofia? Ma questa è una domanda, un'ottima domanda, ma alla quale risponderei con il ritornello di Evenflow. Evenflow thought like butterflies. I pensieri arrivano come le farfalle, che è un po' un'idea per me molto filosofica, che si trova in un ritornello di una canzone rock, per cui sì, già questo insomma dà un po' l'idea. A volte le intuizioni filosofiche funzionano proprio come dice il ritornello di Evenflow. Al di là di questo, io credo che molte forme della cultura popular, che sia il cinema, che sia la musica pop, che sia i fumetti, che sia altro ancora, possano avere implicazioni, valenze, risonanze filosofiche, e in alcuni miei lavori ho provato ad applicare questa idea, il caso dei Radiohead, di Frank Zappa, e l'anno scorso ai Pearl Jam, che sono una delle mie band più importanti nella mia vita, ecco. Pearl Jam cominciano come band grunge, poi in realtà evolvono e durano fino ai giorni nostri, quindi immagino che nelle loro canzoni abbia, al di là di Evenflow, trovato anche altri riferimenti, altri spunti, no, filosofici? Sì, assolutamente, infatti quella su Evenflow era un po' una battuta, anche perché doveva essere originariamente il sottotitolo del libro, Pearl Jam and Philosophy Thoughts Arrive Like Butterflies, ma alla fine abbiamo lasciato perdere il sottotitolo. Però sì, il libro è uscito l'anno scorso con l'editore Bloomsbury di Londra, New York, e sì, è una raccolta di saggi di vari autori e varie autrici di tante nazionalità, c'è anche un mio saggio, e abbiamo cercato di analizzare in chiave filosofica da diverse prospettive, cioè riferite a diversi approcci o metodi filosofici, oppure alla filosofia in relazione alla letteratura, alla moda, nel caso del grafico ancora. Abbiamo cercato di analizzare appunto il corpus, in qualche modo, di canzoni che ormai si prendono da 30 anni, dal 91 al 2021, dei Pearl Jam, individuando soprattutto alcuni brani. Ne cito qualcuno, Present Tense è sicuramente un brano estremamente filosofico, e cercando di individuare queste, soprattutto la componente delle domande che i Pearl Jam pongono in Present Tense, in tante altre canzoni, e il tipo di risposte che a volte offrono, proprio come in qualche modo capita nella filosofia. L'evento di venerdì a chi è rivolto e come si svolgerà? Allora, l'evento di venerdì è collocato in qualche modo strategicamente il giorno prima del concerto degli Pearl Jam, che attendiamo tutti e tutte da 2 anni, rimandato a causa della pandemia. Si svolgerà appunto il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, come lei ha già ricordato. Non saranno presenti tutti gli autori e tutte le autrici che hanno contribuito al libro, anche perché molti autori, molte autrici sono di altre nazionalità, statunitensi, eccetera, quindi saremo in 4 e presenteremo quindi 4 fra le varie interpretazioni filosofiche dei Pearl Jam che abbiamo raccolto nel libro. E quanto alla sua domanda a chi si arriva, che è rivolto a tutte le persone interessate idealmente a tutte le persone interessate alla filosofia, a tutte le persone interessate alla popular music nella sua complessità, e a tutti i fan e tutte le fan dei Pearl Jam. Quindi idealmente a una platea molto vasta, se può essere di interesse, come ci auguriamo. Noi ci stiamo dando del lei, ma siamo quasi coetanei, visti anche i gusti musicali. Allora a questo punto non posso non farle questa domanda, magari un po' più leggera: qual è il suo album preferito dei Pearl Jam? Beh, questa è una domanda apparentemente semplice, ma qualunque fan di un artista, di una band, sa che è la domanda più difficile in realtà a cui rispondere. Diciamo che qui si scontrano tanti fattori: l'album che ami con la mente, l'album che ami con il cuore, io direi forse Biology. Quindi andiamo insomma indietro, uno dei primi album. Io avrei detto Versus, sì. Ma ovviamente è difficile scegliere. È molto difficile, infatti ho detto forse, anche perché sì, tra i candidati ci sono Versus, No Code, anche Riot Act, un disco che amo moltissimo, per esempio. Allora io la ringrazio e ricordo l'appuntamento per venerdì 24 giugno alle 16 in via Barberia 4, al Dipartimento del Dams, Hyperjam e la filosofia. Grazie mille. Grazie mille a lei.